Sura del terremoto, capitolo 99. Rivelata alla Mecca, consta di 8 ayat e discesa dopo la Sura 4, An-Nisa. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo. Quando la terra, sconquassata dal terremoto della sua catastrofe, farà uscire i suoi pesi e l'uomo dirà: che cos'ha? Quel giorno essa darà le informazioni in suo possesso, poiché il tuo Signore gliele avrà rivelate. Quel giorno gli uomini saranno fatti uscire per categorie, affinché vedano le loro azioni. E chi fece tanto bene quanto il peso di un atomo lo vedrà, e chi fece tanto male quanto il peso di un atomo lo vedrà.